prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Sì, siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo, ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Leggo che sulla terra sempre c'è una guerra, ma però per fortuna stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, c'è la fame, ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai ai ai. Ogni atomica è una voce e i birilli sono l'umanità, il capriccio di un capoccia ed il mondo in aria salterà. Si rapina lunedì, ci si ammazza gli altri dì, guarda un po' che società, ipocrisia qua e là, non va, non esiste morale, c'è per tutti un complesso, un problema del sesso e le persone serie che non raccontano storie, le han spedite in ferie. Questa terra è il monopolio delle idee sbagliate, qui si premiano quei film dove c'è un morto in più, si divorano i romanzi con il vizio a rate, c'è persino corruzione dove c'è lo sport. No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi... lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi tutti insieme in un clan ci uniremo, cambierà questo mondo se noi daremo una mano a chi ha più bisogno. Ci sarà solo amore, solo amore, ci sarà, solo amore, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba